America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Concord, New Hampshire, Mario Platero. I care about the vision of America and the role that America plays in the world. I happen to believe that this president we have now is over his head when it comes to guiding this country. Avete sentito Mitt Romney in campagna elettorale? Siamo ormai agli ultimi sprazzi, le ultime ore di questa campagna elettorale che porterà al voto di domani nel New Hampshire. C'è ovviamente molta tensione. Vi ho fatto ascoltare Mitt Romney perché in qualche modo dovrebbe essere lui l'uomo da battere. Ha vinto in Iowa, anche se soltanto per 8 voti. Qui ha un vantaggio di circa il 40% negli ultimi sondaggi, quindi il New Hampshire dovrebbe essere suo. Però ovviamente c'è molta attenzione invece per la grande rivelazione dell'Iowa, e cioè per la performance di Rick Santorum. La battaglia è una battaglia complessa. Perché? Beh, perché se ci pensate, la destra in fondo ha circa il 60-70%, se poi escludiamo Ron Paul, del voto della base militante del partito. Questo abbiamo visto in Iowa. In New Hampshire la situazione è leggermente diversa, però è una destra estrema divisa, e dunque dobbiamo guardare in avanti. Io vorrei staccare un attimo da quella che è la cronaca stretta e vorrei fare invece un'analisi di prospettiva. Ho con me ai microfoni di America 24 qui in New Hampshire, anche lui a seguire per il nostro giornale queste elezioni, Christian Rocca. Buongiorno Christian. Buongiorno a voi. Mitt Romney è stato sempre straordinariamente stabile, è riuscito a distruggere tutti gli esponenti della destra del partito, che pure una destra molto forte, molto militante, che non ama Mitt Romney, ma uno per uno li ha fatti cadere. Adesso è emerso Rick Santorum, c'è Gingrich che è ripartito all'attacco. Secondo te le prospettive di medio termine di Mitt Romney sono quelle che ascoltiamo un po' in giro nella stampa americana, cioè che alla fine è lui quello che ha la maggiore chance di farcela proprio perché è stato finora il più stabile, o pensi che Santorum possa davvero diventare una minaccia? Intanto la stabilità di Mitt Romney è una stabilità, diciamo, molto bassa, perché lui è stabile al 25% dei sondaggi, quindi c'è il 75% degli elettori repubblicani che non lo vuole, che preferisce di volta in volta qualcun altro. Lui non ha tanto annientato gli altri, si sono auto-annientati gli altri, perché alla prima occasione in cui i giornali, le televisioni li hanno ascoltati, li hanno sentiti, li hanno raccontati, sono crollati. Beh, quindi, però scusa Christian, su questo credo che Gingrich non sarebbe d'accordo con te, perché lo hai visto com'era irritato contro Romney, quindi io credo che dietro comunque ci sia una macchina piuttosto solida che orchestra un po' di strategie di comunicazione, o no? Certo, ovviamente io parlavo del 25% degli elettori comuni, ma ovviamente la macchina del partito è dei grandi finanziatori, insomma è molto dietro Romney, questi super PAC, questi super political action committee che fanno delle campagne formalmente slegate e lontane dalla campagna del candidato, però inondano le televisioni di spot contro altri candidati, e in questo modo hanno distrutto Gingrich, il quale credo sia più che altro in campo ancora soltanto per vendicarsi di Romney più che davvero tentare la sua partita. Ecco, scusa, ma parlando di Gingrich, non sarebbe stato più responsabile dal suo punto di vista ritirarsi e appoggiare subito Santorum? Tu dicevi giustamente c'è un 75%, io però dedurrei da questo 75%, diciamo, la quota di Ron Paul, perché secondo me Ron Paul continuerà per la sua strada e vale circa un 15-18% su quel 75%. Resta comunque una maggioranza forte. Ecco, non è vero che se continuano a essere divisi poi alla fine rischiano di perdere? È vero che c'è un 25% per Romney, 40% probabilmente in New Hampshire, ma chissà, in South Carolina ovviamente è difficile. Ma non c'è un'autodistruzione da parte di questi candidati? Io penso che Gingrich in New Hampshire aiuterà Santorum, perché Santorum non andrà diretto contro Romney, perché sta facendo una campagna elettorale di altro tipo, e perché non si sa mai, potrebbe essere scelto da Romney come potenziale vicepresidente a novembre contro Obama. Il lavoro sporco non lo faranno i PAC, i super PAC, i grandi finanziatori, perché Santorum non li ha, lo farà Gingrich, che è davvero violentemente arrabbiato nei confronti di Romney, perché per la campagna che è stata fatta contro di lui in Iowa. Ecco, tu hai accennato al fatto che Santorum potrebbe essere scelto da Romney, in effetti sarebbe una coppia ideale, perché in quel modo Mitt Romney si copre a destra. Un po' troppo bianca la coppia. Un po' troppo bianca, questo senz'altro, è forse un po' troppo a destra per poter vincere quel centro cruciale. Però implicitamente tu ci hai detto che secondo te vincerà Romney, o sbaglio? Guarda, intanto dobbiamo vedere cosa succede domani, perché domani la cosa importante è capire se Santorum tiene. Tutto il resto non conta, conta capire se Santorum arriva secondo o arriva terzo, ma non molto staccato da un eventuale secondo, perché se Santorum dovesse arrivare, come dicono i sondaggi, molto giù, e quindi superato sia da Gingrich, sia da Ron Paul, sia anche da John Huntsman, e allora Santorum è già finito e da domani dobbiamo parlare d'altro, e probabilmente a quel punto dovremo parlare di Mitt Romney, candidato già adesso contro Obama a novembre. Quindi c'è una possibilità che con la Florida queste elezioni già si chiudono, se domani il risultato elettorale sarà in quella direzione? Sul Sole 24 Ore ho intervistato in Iowa Bill Kristol, un noto, diciamo, columnist, pensatore e anche un politico militante del mondo conservatore repubblicano, il quale lui sostiene che in realtà tra la Florida e l'inizio, dove si vota il 31 di gennaio, e l'inizio di febbraio potrebbe ancora accadere qualcosa. Che cosa potrebbe accadere? Secondo lui, se il campo è un po' diviso, un po' così spaccato, un po' senza chiaramente un candidato che piace alla maggioranza ampia del partito, qualcun altro potrebbe scendere in campo. Potrebbe scendere in campo, lui ha fatto l'esempio diretto del governatore dell'Indiana, Mitch Daniels, o qualcun altro che a quel punto dice: arrivo io, salvo io il partito e salvo io l'America da un secondo mandato di Obama. Ecco, Christian, devo dire con tutto rispetto per Kristol, non credo che questo succederà. Cioè, l'ipotesi del terzo candidato continua a venire fuori, l'ascoltiamo tutto il tempo, poi alla fine sono quelli che partono dalla mischia iniziale, poi si sceglie il candidato. Io credo che finirà in quel modo. Parliamo di Obama. Lo abbiamo visto piuttosto attivo, ha sfidato i repubblicani con una nomina piuttosto provocatoria, la nomina del nuovo commissario per l'Agenzia della Protezione dei Consumatori, che è odiato dai repubblicani che lo avevano bocciato. Ha rilanciato sul fronte economico con un discorso l'altro giorno e poi ha fatto questo importante discorso al Pentagono venerdì. Ecco, qual è la strategia di Obama? Di attendere o di mantenere, di essere presente il più possibile? Lo abbiamo visto anche in un rapporto molto diretto con Mitt Romney. La strategia di Obama è quella di dire che lui ha fermato la grande recessione, la situazione è grave, è ancora critica, ma la situazione poteva essere peggiore di quella che viviamo, e sicuramente l'alternativa alle sue politiche, quelle della destra repubblicana, sarebbero peggiori per la middle class, per la working class e così via. Questa, diciamo, la sua macro strategia. In realtà io ho la sensazione, vedendo sul campo i comizi di Romney, anche di Santorum in Iowa, poi in New Hampshire, eccetera, che i repubblicani proprio aiutino loro Obama. Non vedo questo entusiasmo, non vedo una proposta che scalda i cuori, che parli alla pancia della gente o ai cervelli della gente. Cioè, vedo così un tentativo di presentare qualcuno che magari provi a, in modo più tecnocratico, a governare meglio il paese, ma senza la passione, senza il coraggio, senza nuove idee. E questo, secondo me, non fa altro che giocare fare il gioco di Obama, il quale sta lì, aspetta, e secondo me verrà rieletto alla Casa Bianca. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. John Sampson, leader della band indie rock Weatherhands, ha annunciato l'uscita di un disco solista dal titolo Provincial, è un tour degli Stati Uniti che lo porterà a New York il 15 marzo. Di John Sampson, When I Write My Master's Thesis. Oh, the hours I spent in the archives wearing cotton gloves, shuffling photos from the 9th and sanatorium. Concord, New Hampshire. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.